Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe, traduzione di Elio Vittorini. A D 20 di quel mese, visto che non c'era più in alcun modo possibile continuare a nutrirci di nocciole che ci procuravano terribili dolori di stomaco, prendemmo la risoluzione di tentare, sorte o morte, una discesa dal versante meridionale della collina. La parete del precipizio era, da quel lato, di una pietrasapone estremamente tenera, ma ripidissima per tutta la sua estensione e addirittura a strapiombo in certi punti, ed elevata un 150 piedi. Dopo lunghe ricerche, scoprimmo in un punto una breve sporgenza a 20 piedi dall'orlo della collina e Peters, valendosi di tutto l'aiuto che io potei prestargli, coi nostri fazzoletti legati insieme, riuscì a saltarvi sopra. Io mi calai a mia volta e fu con maggior difficoltà di lui, e allora vedemmo che c'era la possibilità di scendere sino in fondo, adottando il medesimo procedimento che avevamo escogitato per uscire dal baratro dove si era rimasti sepolti al momento del crollo della collina, intagliando, cioè coi coltelli, dei gradini lungo la parete di steatite. È difficile che il lettore si renda conto di quanto fosse rischioso un simile tentativo, ma siccome non avevamo da scegliere, ci decidemmo senz'altro ad intraprenderlo. Sulla sporgenza dove eravamo saltati crescevano alcuni arbusti di noccioli e ad uno di essi attaccammo la nostra corda di fazzoletti. Assicurato l'altro capo della quale intorno alla vita di Peters, io calai il mio amico lungo il precipizio sinché la corda non si fu tesa. Allora egli si mise a scavare nella steatite un buco profondo 8 o 10 pollici circa, tagliandolo obliquamente nella sua parte superiore per un piede di altezza, in modo da poterci piantare, col calcio di una pistola, un piolo abbastanza solido. Issai quindi di circa 4 piedi il mio amico, ed egli scavò un buco simile a quello sottostante, nel quale pure piantò un piolo con lo stesso sistema di prima, ottenendo così un punto di appoggio per i piedi e per le mani. Disciolsi allora la corda dei fazzoletti dall'arbusto e gliene gettai l'estremità che egli legò al piolo superiore, lasciandosi quindi scivolare lentamente 3 piedi più giù della sua prima stazione, per tutta la lunghezza, cioè, della cordata. A quel punto scavò un nuovo buco e piantò un nuovo piolo. Quindi si issò da sé, ponendo il piede sul piolo ultimo piantato e con le mani tenendosi a quello superiore. Bisognava che egli sciogliesse l'estremità della corda dal piolo in alto per fissarla al secondo, e nel tentare di farlo si accorse che aveva commesso uno sbaglio a scavare i buchi a così grande distanza l'uno dall'altro. Ad ogni modo, dopo un paio di vani e pericolosi tentativi, giacché gli occorreva tenersi con la mano sinistra e con la destra cercare di sciogliere il nodo, si decise infine a tagliare la corda lasciandone un lembo di circa 6 pollici attaccato al piolo. Fissò quindi la corda al secondo piolo e si calò al di sotto del terzo, avendo cura questa volta di non andare troppo basso. Grazie a questo procedimento, che io non sarei mai stato capace di inventare e che fu dovuto all'ingegnosità e al coraggio di Peters, il mio compagno, facendo qua e là tesoro delle sporgenze della parete, pervenne a raggiungere senza incidenti di sorta il piede della collina. Mi ci volle del tempo per raccogliere l'energia necessaria a seguirlo, ma alla fine intrapresi la discesa. Peters si era tolta la camicia prima di cominciare a calarsi giù e io, unendola alla mia, formai la corda richiesta dall'operazione. Buttato che ebbi al mio amico il fucile rinvenuto nel sotterraneo, legai la corda agli arbusti e mi lasciai scivolare rapidamente, sforzandomi così di vincere, con l'energia dei movimenti, la trepidazione che mi agitava. Per i primi 4 o 5 gradini riuscii a tanto, ma l'idea dell'immensa altezza che ancora mi divideva dal fondo del precipizio e della fragilità dei sostegni in cui mi appoggiavo finì in breve per impressionarmi fortemente. E invano mi sforzavo di espellere quell'idea dalla mia mente. Invano mi sforzavo di tenere fissi gli occhi sulla muraglia. Più lo cercavo e più i miei pensieri si facevano vivi ed intensi, di una chiarezza spaventevole. Giunse il momento della crisi, così pericolosa in casi del genere, di quella crisi dell'immaginazione per cui uno comincia a figurarsi le sensazioni che portano alla caduta. Il malessere, la vertigine, lo sforzo estremo per resistere, poi il venir meno e tutto l'orrore della caduta stessa a precipizio, a capofitto. Quelle immagini andarono a mano trasformandosi in realtà, tutti gli orrori evocati realizzandosi. Sentii le mie ginocchia urtarsi violentemente, le mie dita lasciare gradualmente ma positivamente la presa. Avvertii un ronzio alle orecchie e mi dissi: ecco, questo è il mio rintocco di morte. Mi prese un desiderio irresistibile di guardare sotto a me. Non potevo più, non volevo più costringere i miei occhi a fissare la muraglia e con una strana, indefinibile emozione di orrore e di sollievo insieme, affondai lo sguardo nell'abisso. Per un attimo le mie dita si avvinghiarono convulsamente alla presa e un'ultima volta il pensiero della salvezza mi attraversò, lieve come un'ombra, la mente, ma l'istante appresso il mio animo era tutto pervaso dal desiderio di cadere. Desiderio, febbre, passione, che in nessun modo riuscii a padroneggiare. Di colpo lasciai di tenermi, feci un mezzo giro contro la muraglia e rimasi sospeso lungo la liscia superficie. Non fu che un secondo, sentii che la testa mi girava, che una fantasmatica voce mi perforava di un urlo le orecchie, poi una diabolica ombra nera salì dal fondo sino a me e, dando un sospiro, col cuore in pezzi, io mi abbandonai nelle sue braccia. Svenuto mentre cadevo. Dal suo posto a piede alla collina, egli aveva osservato i miei movimenti e, accortosi del pericolo che correvo, aveva cercato come meglio poteva di infondermi coraggio. Ma tanto io ero turbato che non avevo sentito quello che mi diceva e non m'ero neanche reso conto che mi parlava. Vedendomi infine vacillare, egli si era affrettato a venirmi in aiuto ed era giunto giusto in tempo per salvarmi. Se io fossi caduto con tutto il mio peso, la corda delle camicie si sarebbe inevitabilmente rotta e sarei precipitato nell'abisso. Sostenuto invece da Peters, che ammortì la scossa, rimasi sospeso, senza pericolo, sino a quando non tornai nel possesso dei sensi. Recuperati i quali, in capo a 15 minuti, e liberato dal mio terrore, mi sentii come un essere nuovo e, con l'aiuto ancora per un po' del mio compagno, raggiunsi finalmente il fondo sano e salvo. Vedemmo allora che ci trovavamo a poca distanza dal burrone in cui erano stati sepolti i nostri amici, a sud dal luogo della frana. Il posto appariva di una strana desolazione che mi fece venire in mente quello che i viaggiatori scrivono delle lugubri regioni dove sono le rovine di Babilonia. Senza parlare della caotica barriera di macerie che chiudeva a nord l'orizzonte dove era avvenuto il crollo, la superficie del suolo era da ogni parte cosparsa di enormi tumuli che sembravano rottami di gigantesche costruzioni, che però, ad un esame minuzioso, risultarono privi di ogni indizio di lavoro umano. C'era una gran quantità di scorie e grossi blocchi di granito nero frammisti a blocchi di marna. Anche la marna era nera. Nulla notammo in quell'isola che fosse di un colore chiaro, tanto il granito che la marna granulati di metallo. Fin dove arrivava l'occhio non si scorgeva traccia alcuna di vegetazione su quella desolata superficie. Vedemmo invece dei grossi scorpioni e diverse specie di rettili che altrove non si trovavano a quelle latitudini. Siccome il nostro scopo immediato era di provvedere al nostro nutrimento, decidemmo di portarci sulla costa, distante non più di mezzo miglio, a cacciarvi tartarughe che dalla collina avevamo visto esservi abbondanti. Ci si era avanzati di un 100 yard, strisciando circospetti al riparo delle rocce, e avevamo svoltato un angolo quando 5 selvaggi, sbucati fuori da una piccola caverna, si precipitarono addosso a noi e atterrarono Peters con un colpo di clava. Tutta la banda gli fu subito sopra per immobilizzarlo, dandomi in tal modo il tempo di riavermi dalla sorpresa. Io avevo ancora il fucile, ma la canna si era talmente danneggiata nel cadere dall'alto della collina che lo gettai via come una cosa inutile e preferii servirmi delle pistole che per il loro ottimo stato e per la cura con la quale le avevo conservate mi davano maggior affidamento. Mi slanciai dunque con le mie armi in mano sugli assalitori e l'una dopo l'altra le scaricai loro addosso. 2 selvaggi caddero e un terzo, che stava per trafiggere Peters con la lancia, scattò da parte senza condurre a termine il suo disegno. Tratto in tal modo d'imbarazzo il mio compagno, noi ci trovammo in grado di fronteggiare la situazione. Anche Peters aveva indosso le pistole, ma giudicò prudente non farne uso e ricorrere invece alla sua forza eccezionale, che era notevolmente superiore a quella di ogni altro uomo da me conosciuto. Impadronitosi della clava di uno dei selvaggi caduti, egli spaccò il cranio in un batter d'occhio ai 3 che restavano, con un colpo per uno. Così restammo padroni del campo. Tutto ciò era avvenuto tanto rapidamente che a noi non pareva fosse stato vero. E restavamo lì, a contemplare stupidamente i cadaveri, quando ecco in lontananza risuonare delle grida che ci ricondussero alla realtà. Era chiaro che gli spari avevano dato l'allarme, per cui correvamo pericolo di essere scoperti. Per rimontare la collina avremmo dovuto prendere la direzione dalla quale provenivano le grida e poi, ove fossimo riusciti a raggiungerne la base, non ci sarebbe stato possibile risalirla senza esser visti. La nostra situazione era delle più pericolose e noi non sapevamo da quale parte scappare quando uno dei selvaggi, su cui avevo fatto fuoco e che io ritenevo morto, saltò vivamente in piedi e cercò di pigliare al largo. Prima che avesse potuto fare qualche passo, noi gli fummo sopra per ammazzarlo. Ma Peters, ritenendo che poteva esserci in qualche modo di vantaggio, decise di costringerlo a seguirci nel nostro tentativo di fuga. Ce lo tirammo dunque dietro, facendogli capire chiaramente che lo avremmo ammazzato se ci avesse opposto la minima resistenza. In pochi minuti egli si sottomise perfettamente e ci seguì nella nostra corsa verso la spiaggia. Le ineguaglianze del terreno ci avevano sino a quel punto tenuto nascosta, tranne in qualche intervallo, la vista del mare, e fu a una distanza di circa 200 yard che esso si aprì pienamente ai nostri sguardi. Usciti allo scoperto sulla baia, restammo sgomenti di vedere una moltitudine di indigeni correrci incontro dal villaggio e da tutti i punti dell'isola, facendo gesti di furore e lanciando urla da belve. Stavamo per battere in ritirata e cercar rifugio tra le anfrattuosità del terreno, quando scorgemmo profilarsi di dietro a una grossa roccia che si avanzava nell'acqua le prue di 2 piroghe. Ci precipitammo allora a quella volta e, raggiuntele, le trovammo vuote di gente, con 3 grosse tartarughe Galapagos a bordo e pagaie bastevoli per 60 rematori. Prendemmo subito possesso di una delle due e, spinto su di essa il nostro prigioniero, vogammo al largo con tutta la forza di cui disponevamo. Ma fatte 50 yard, eravamo tornati abbastanza calmi per capire quale enorme errore avessimo commesso, lasciando l'altra piroga in potere dei selvaggi, i quali nel frattempo si erano avvicinati alla baia e non ne distavano che il doppio appena di quanto ne distavamo noi, e continuavano ad avanzarsi veloci nella loro corsa. Non c'era da perdere tempo. La nostra speranza era assai problematica, ma era l'ultima che ci restasse. Nulla ci garantiva che, pur col massimo sforzo, noi si arrivasse ad impadronirci della piroga prima dei selvaggi. Ad ogni modo, ne avevamo la probabilità, e se fossimo riusciti, avremmo potuto salvarci, mentre se non tentavamo, ci toccava rassegnarci a un macello inevitabile. La nostra piroga era costruita con la prua e la poppa uguali, e in luogo di virare mutammo semplicemente il movimento dei remi. Come i selvaggi se ne accorsero, raddoppiarono le urla e aumentarono di velocità, tanto che si avvicinavano in modo inconcepibile. Noi frattanto vogavamo con tutta l'energia della disperazione, e al momento in cui raggiungemmo il punto disputato non vi era arrivato che uno solo dei selvaggi. Egli pagò cara la sua maggiore agilità, ricevendo nella testa, sparatogli da Peters, un colpo di pistola. Degli altri, i più vicini si trovavano a 20 o 30 passi quando ci impadronimmo della piroga che dapprima cercammo di tirare a noi nell'acqua fonda, fuori dalla portata dei selvaggi, ma visto poi che era solidamente arenata e non avendo tempo da perdere, Peters ne sfondò un fianco e la prua a colpi di calcio del fucile. Dopodiché ci spingemmo al largo. Due selvaggi che nel frattempo erano riusciti ad afferrare la nostra imbarcazione e non volevano più mollarla, ci costrinsero a far uso dei nostri coltelli per sbarazzarcene. Tratti così d'impaccio, ci dirigemmo bellamente verso il mare aperto. Il grosso dei selvaggi, raggiunta che ebbe la piroga sfondata, scoppiò in orribili urla di furore e di disappunto. Da quando ho potuto conoscerne, io ritengo che non ci sia al mondo razza più perfida, più ipocrita, più vendicativa e sanguinaria, in una parola più demoniaca, di quei miserabili. Era chiaro che non avremmo avuto da attenderci misericordia se fossimo caduti nelle loro mani. Tentarono di inseguirci con la piroga rotta, ma vedendo che non potevano servirsene, tornarono a manifestare la loro rabbia in una serie di spaventevoli vociferazioni. Quindi si precipitarono verso le colline. Non avevamo dunque più da temere alcun pericolo immediato, ma non per questo la nostra situazione era meno problematica. Ricordavamo di aver visto in possesso dei selvaggi quattro piroghe, come quella di cui ci trovavamo a bordo, e non sapevamo, cosa che ci fu più tardi rivelata dal nostro prigioniero, che due di esse erano state messe in pezzi dall'esplosione della Jane Guy. Ci aspettavamo dunque di venire inseguiti non appena i nostri nemici fossero riusciti a fare il giro e raggiungere la baia, distante 3 miglia all'incirca, dove le piroghe si trovavano di solito ormeggiate. Nel timore di ciò, noi ci sforzammo di allontanarci dall'isola alla massima velocità possibile e filammo via sull'acqua, costringendo il nostro prigioniero a prendere una pagaia anche lui. In capo a una mezz'ora circa, avendo proceduto forse di 5 o 6 miglia verso il sud, scorgemmo una numerosa flottiglia di zattere e di altre imbarcazioni a fondo piatto emergere dalla baia, nell'evidente intenzione di inseguirci. E però, disperando certo di raggiungerci, non tardarono molto a ritornarsene indietro.